bene, ti stracciavo sempre a scuola. Ti senti ben sicuro nel verde me una aiuola, mentre tu trami orrori mi riduco una bracciola. Ho la stima della gente, io sono un capo scuola, innesco con l'esempio una virtuosa scuola. Quel che io posso fare è come una nocciola, ma tante noccioline fanno una sassaiola. Il mio superpotere è ben più di quel che pare, non si tratta d'essere forte o di saper volare. Il mio potere, il tutore, è quello di insegnare ad essere d'acciaio o a non lasciarsi andare. Il tuo universo vive come una banderuola, se tira troppo vento farà una capriola. La sola vostra speme è che la musa ruola che avete messo a tutti non sia di gorgonzola. Tu con la criptonite vuoi far di me pezzuola, oppure farmi arrosto come savonarola. Ma scordatelo bello, non mi avrai nella tagliola. Il tuo non è un gran piano, è uno schifo di pianola. Il mio superpotere è ben più di quel che pare, non si tratta d'essere forte o di saper volare. Il mio potere, il tutore, è quello di insegnare ad essere d'acciaio o a non lasciarsi andare. Il mio superpotere è ben più di quel che pare.